Il punto di Stefano Folli. Gli ultimi bagliori dell'era di Berlusconi si consumano nella confusione senza una logica apparente, un autentico psicodramma del potere che si estingue. L'unico dato di fatto è che Berlusconi ha compreso che la sua candidatura è fallita, perché gli hanno detto no i governi europei, i mercati finanziari, la Casa Bianca, la Chiesa e infine, elemento più importante di tutti, la Lega di Maroni. Senza una sola carta in mano, Berlusconi ha tentato l'ultima giocata, agganciarsi al carro di Mario Monti, cercare di negoziare qualcosa con il Presidente del Consiglio in vista della discesa in campo di quest'ultimo, anche per evitare una saldatura fra gli ambienti moderati che sostengono Monti e il centro-sinistra. Ma è un'operazione senza respiro che il Premier non ha alcuna difficoltà a rigettare. Che Monti si candidi oppure no, non è più questione che riguardi Berlusconi, è un passaggio politico che investe altri scenari in Italia e in Europa e al quale Berlusconi, dopo tanti anni di potere, può solo assistere, in compagnia del suo gruppo di fedelissimi, che però si sono da tempo chiusi da soli in un angolo.